Ottavo canto dell'Inferno dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno. Ottavo canto. Io dico, seguitando, ch'assai prima che noi fossimo al piè dell'alta torre, gli occhi nostri n'andar suso alla cima per due fiammette che i vedemmo porre, e una da lungi render cenno, tanto ch'appena il potea l'occhio torre. E io mi volsi al mar di tutto il senno, dissi: questo che dice e che risponde quell'altro fuoco, e chi son quei che il fenno? Ed egli a me: su per le sucide onde già scorgere puoi quello che s'aspetta, se il fumo del pantan nol ti nasconde. Corda non pinse mai da sé saetta che sì corresse via per l'aere snella, com'io vidi una nave piccioletta venir per l'acqua verso noi in quella, sotto il governo d'un sol galeoto, che gridava: or s'è giunta, anima fella! Flegias, Flegias, tu gridi a vuoto, disse lo mio signore, a questa volta più non ci avrai che sol passando il loto. Qual è colui che grande inganno ascolta che li sia fatto e poi se ne rammarca? Fecesi Flegias nell'ira accolta. Lo duca mio discese nella barca e poi mi fece entrare appresso lui, e sol quand'io fui dentro parve carca. Tosto che il duca io nel legno fui, segando se ne va l'antica prora dell'acqua più che non suol con altrui. Mentre noi corravam la morta gora, dinanzi mi si fece un pien di fango e disse: chi sei tu che vieni anziora? E io a lui: sì vegno, non rimango, ma tu chi sei che sì s'è fatto brutto? Rispose: vedi che son un che piango. E io a lui: con piangere e con lutto, spirito maladetto, ti rimani, ch'i ti conosco, ancor sì è lordo tutto. Allor distese al legno ambo le mani, perché il maestro accorto lo sospinse, dicendo: via costà, con gli altri cani. Lo collo poi con le braccia mi cinse, basciommi il volto e disse: alma sdegnosa, benedetta colei che in te s'incise. Quei fu al mondo persona orgogliosa, bontà non è che sua memoria fregi, così s'è l'ombra sua qui furiosa. Quanti si tegnono or lassù gran regi, che qui staranno come porci in brago, di sé lasciando orribili dispregi. E io: maestro, molto sarei vago di vederlo attuffare in questa broda prima che noi uscissimo del lago. Ed egli a me: avante che la proda ti si lasci veder, tu sarai sazio, di tal disio convien che tu goda. Dopo ciò poco vid'io quello strazio far di costui alle fangose genti, che Dio ancor ne lodo e ne ringrazio. Tutti gridavan: a Filippo Argenti! E il fiorentino spirito bizzarro in sé medesmo si volvea coi denti. Qui vi lasciammo, che più non ne narro, ma nelle orecchie mi percorse un duolo, perché io avante l'occhio intento sbarro. Lo buon maestro disse: omai, figliuolo, s'appressa la città ch'a nome dite, coi gravi cittadin, col grande stuolo. E io: maestro, già le sue meschite là entro certe nella valle c'erno, vermiglie come se di fuoco uscite fossero. Ed ei mi disse: il fuoco eterno ch'entro la foca le dimostra rosse, come tu vedi in questo basso inferno. Noi pur giugnemmo dentro all'alte fosse che vallan quella terra sconsolata. Le mura mi parean che ferro fosse. Non sanza prima far grande aggirata, venimmo in parte dove il nocchier forte usciteci gridò qui è l'intrata io vidi più di mille in su le porte da ciel piovuti che stizzosamente dicean chi è costui che sanza morte va per lo regno della morta gente e il savio mio maestro fece segno di voler lor parlar segretamente. Allor chiusero un poco il gran disdegno e disser vien tu solo e quei sen vada che sì ardito intrò per questo regno sol si ritorni per la folle strada pruovi se sa che tu qui rimarrai che li hai scorta sì buia contrada pensa lettor se io mi sconfortai nel suon delle parole maledette che non credetti ritornarci mai o caro duca mio che più di sette volte mai sicurtà renduta e tratto d'alto periglio che incontra mi stette, non mi lasciar, diss'io, così disfatto, e se il passar più oltre ci è negato, ritroviam l'orme nostre insieme ratto. E quel signor che lì m'avea menato mi disse, non temer, che il nostro passo non ci può torre alcun da tal né dato. Ma qui m'attendi e lo spirito lasso conforta e ciba di speranza buona, ch'i non ti lascerò nel mondo basso. Così sen va, e quivi m'abbandona lo dolce padre, e io rimango in forse che sì e no nel capo mi tenciona. Udir non potti quello calor porse, ma ei non stette là con essi guari, che ciascun dentro a prova si ricorse. Chiuser le porte coi nostri avversari nel petto al signor mio che fuor rimase e rivolsesi a me con passi rari gli occhi alla terra e le ciglia avea rase d'ogne baldanza e dicea nei sospiri chi m'ha negate le dolenti case e a me disse tu per ch'io m'adiri non sbigottir ch'io vincerò la prova qualca la difension dentro s'aggiri. Questa lor tracotanza non è nova, che già l'usaro a men segreta porta, la qual sanza serrame ancor si trova. Sovr'essa vedestù la scritta morta, e già di qua da lei discende l'erta, passando per li cerchi sanza scorta, tal che per lui ne fia la terra aperta. Fine dell'ottavo canto dell'Inferno.